quanto è due, quindi. Allora è questione di. Vuol dire che stanno gridando troppo. Troppo infuriato, hai visto? Perché è così, è classica, classica. La marcia. Vedi, io lavoro anche in Food Duper, mi sono fatto vedere. Ah, ci picchia. Ah no, vedi, no, praticamente no. Adesso siamo Bologna, sì, volo basso, è che c'è Salvatore che ha detto che invece di fumare la sigaretta sto fumando Viagra, quindi insomma. Lo senti Salvatore, Marco Scorpio? Lo sento. Per carità. Ascolta, ma quindi per festeggiare stasera piedini? No, assolutamente. Assolutamente negativo. Avanti chi vuole entrare. Sì. Vabbè, riprendi, va. Sono rientrato io. È successo nel frattempo, non ho sentito niente, ti ho sentito ridere, fa, cosa è successo? Non ho ascoltato. Esprimiti, racconta Roberto le tue ultime novità. Già mi ha visto Roberto la sigaretta elettronica, ce l'ho anche io, glielo lui. Mi saluta Marco Scorpio, comunque è arrivato a casa, mi saluta tutti. Cosa vuoi dicendo, Salvatore? Non me la metto più, mai, boh, mi hai disorientato. Vengo per sento a te, non riesco più a parlare, mi emozioni. No, infatti il discorso era partito proprio da questo, tu inizi a parlare, 5 minuti dopo ti sei dimenticato quello che dovevi dire, e non chiedi a noi di ricordarti quello che devi dire, e la cosa inizia a essere preoccupante. È che non mi ricordo, quindi, cioè, la vecchiaia è cara mia, riprende Roberto. Ma io sento tipo un'attesa, nel coso, sulla modulazione di Salvatore. C'è qualcosa vicino o tipo qualcosa di un difettuccio sotto, Salvatore? No, un difettuccio di uno imbecille è convinto facile, però me lo copre. Così è, allora immagino, dai. Che dite? Posso andare? Vai, c'è 9.30 qua, non c'è problema. E poi mi avete dato, sentivo tipo una portantina piccolina, dai, cioè pensavo prima volta fosse qualcosa dovuto magari a qualche sottodimensionamento dell'alimentazione, ma non penso proprio, perché Salvatore probabilmente c'ha roba, giocattoli professionali, non giocattoli semplici. Mentre a Claudio non c'è neanche il coso, ti curicano, mi stai dando questi colpi allo sviluppo, io vedo il baracchino, ogni colpo che dai si dà un colpettino di fianco, come che gli sta arrivando uno schiaffo. Perché tu cosa pensi di essere inferiore a me? Se 9 più 60 lo sai che siamo attaccati, quindi tra te è rientrato anche Gianni di Nome Sole, tu immagini quando è in 40 metri, se io sono da una parte e lui dall'altra devo andare per forza dove lui, perché le radio inizierà a ballare e non c'è niente da fare. Oh, io non ho mai sentito, vabbè, ci sono dal 2004, non sono mai riuscito a sentire una volta in CB. Non avete mai convinto a rientrare a fare almeno un passaggio a salutare? Lascialo stare con me che si sta impegnando a riprendere in mano la situazione amatoriale. Quando prende in mano la situazione amatoriale, allora lo facciamo passare qua Gianni, vero Salvatore? Che vuoi che dica, ma io lo conosco. Sì, QG. QG. Sì, Gianni di Roma Show, vicino alla dove abita Roberto di fronte, per capirci, va tipo sì, dietro il comando dei vigili urbani, dai. Sì, no, perché, ma su Cuore Z non c'è, giusto? Ma lui non c'è mai stato su Cuore Z, non c'è mai stato. Allora già è la stessa persona, perché un giorno che l'ho sentito sono andato a vedere l'ID per fare fare il log, ma non ero convinto di aver sbagliato io, avevo capito male l'ID. Invece già è giusto, però lui non si è mai registrato. Ok, svelato il mistero. Ma no, io ti confondo con Alfredo, insomma, il giorno che l'avevamo io tu Alfredo e chi c'era? Fabrizio, eccetera, eccetera. Il Mascividiano, quello è Alfredo, non è Gianni. Mi stai facendo venire il dubbio. Adesso prendo il registro perché ce l'avevo. No, infatti mi è rimasto il punto interrogativo. Infatti ho in mano qui il mio taccuino. Ed è Gianni, giusto? Sì, quello è Gianni, invece l'altro è Alfredo, quello che abita giù nella parte bassa della Budibudi, non solo che abita, comunque orientativamente abita lì quello Alfredo, più là. Quello proprio non c'è mai scritto, ma Gianni, io mi ricordo tempo fa, negli anni passati, quando anch'io ero quello più vero, eravamo iscritti, lui praticamente non ha mai fatto il cambio nominativo, capito? Non ha mai fatto il cambio nominativo perché lui non ha dato la seconda, non ha fatto il secondo esame, capito? Poi quando ha unificato le patenti praticamente lui è rimasto il quello più vero e può trasmettere a tutte le parti come che sia, se è vero, non cambia niente oramai. Il nominativo è quello, come Gino, che Gino è rimasto il quello più vero per questioni sue personali, ci sono conosciuto, eccetera, eccetera. Va bene, non ci sono problemi, comunque, tutto. Ti volevo dire una cosa, roba mi sono dimenticato, cos'è il book, va bene, prendi. Figlia di un appunto, come ha detto Salvatore, è un pezzo di carta scritto, che stiamo già iniziando a invecchiare. Porca miseria, quando sto tirando questa sigaretta, ma noi che è piena di gocca. Oh, Robert, ma hai notato che in mezz'ora si sarà dimenticato almeno tre volte quello che doveva dire? No, un paio di volte sicuro, lo senti, la terza male nella pausa quando non c'ero io. Chi mi permette di dire? Se stanno pensando nel bambino, è colpa mia. Non mi sono dimenticato. Volevo dire una cosa, Roberto, mi sono dimenticato. Vabbè. No, invece mi sono ricordato, vedi? Mi sono ricordato. Il parasole me l'hai procurato o dobbiamo andare alla Luna a comprarlo? Guarda, non ti preoccupare, tu ce l'hai, come che ce l'hai già pronto. Però Mario mi sta facendo venire un dubbio perché mi ha detto ce ne sono due tipi, io non lo so, a me non mi risulta, la giusto c'è quello col vetrino dentro e quello senza di differenza, se no cambiano, perché a te non ti la puoi nuda se c'è o non c'è il vetrino, non è così qua. Alla parte mia, no, alla parte del passeggero c'è il vetrino e si illumina anche, quando la passi si accende. Nella parte mia non me ne devo guardare il rossetto, io non me ne puoi nuda. Ma quello che ha contato con la tesi, no, infatti ho detto, dai, togli una puti nuda dello specchietto interno. Già, fra, te lo prometto, quando dico una cosa è così, non ti preoccupare, lo troviamo da sottoterra. Va bene, no, perché evidentemente c'è la mollettina che interno, come mi ha detto Danilo, che non mantiene bene, quindi una volta che poi cammini eccetera, ci ne guarda, capito? Allora, è per quello che lo voglio mettere nuovo. Vabbè, anche se è nuovo, oggi l'hai visto nuovo, però se c'è la mollettina rotta all'interno non è che puoi cambiare la mollettina, si compra e ciccio. Capito, Salato? Sto diventando rincoglionito da quando sto tirando questa cosa elettronica e vorrei capire cosa c'è all'interno. Senti, elettronico, mi ricordi il nome di JXO? Antonio. Ma è lo stesso di Ebio? Anche Ebio si chiama Antonio. Sì, allora aspetta, perché mi sto sistemando le cose. Mi era rimasto il dubbio e l'avevo cancellato. Poi ho detto, beh, è possibile che si chiamino nella stessa maniera. Ed era così. Non so se hai mai sentito quello di Urbia. Immaginati che io ho il primo ricomari con il nominativo di CR e quindi ne ho tolto perché lo volevo tenere come ricordo, ma hanno dato quel nominativo a Ivan, quello di Olbia, che si chiama di CR, con me non ha di FB e lui ha di CR, capito? E quindi la provvisione mi aveva fatto quella. E non lo volevo ottenere, invece l'ho tolto perché insomma non è il mio nome attivo. Pensavo che non lo essere nessuno, invece è capitato a questo collega di Urbia, ogni tanto tra l'altro era qua anche avanti ieri con Walter, e quindi l'ho tolto, l'ho proprio tolto dalla cornice. Raggio capito. Cos'è che ti volevo dire? Ok, quindi questo l'ho scritto. Perché l'altro giorno, hai visto che c'è stato un attimo poi dove eravamo in parecchi parlando, io avevo scritto i nominativi però io, tutti gli dì, ma ho fatto un po' di confusione con i nomi, quindi adesso ne sto approfittando e ti sto chiedendo, passando in rassegna i vari dì, ti sto chiedendo i nomi, ma mi sembra di averli identificati tutti, sì. Ok, riprendi Roberto. Praticamente voi di tutti i collegamenti dovete fare il logo, cioè scrivervi di ogni collegamento, di ogni persona che parlate, o lo fate così saltuariamente? No, è obbligatorio. Obbligatorio la scrittura, almeno per un controllo, obbligatorio. Anche se poi dovrebbe risultare, non so da che cosa, così dicono, comunque obbligatorio. Io a volte lasciavo, ma adesso col computer che c'ho quello al computer perché avevo questo logo di carta, una rottura di scatola, allora praticamente inserisci, una volta inserisci il nominativo, digi chi è iscritto su QRZ, infatti te lo compila in automatico, capito? Quindi è più facile. Mettere a scrivere a penna, anche a matita coso. Copiativo, allora, già più semplice così, eh. Ok, vai Salvatore, riprende. No, io invece ho il problema perché mentre quando accendo la cassa, lo collego al computer, il software mi passa sia la frequenza che come digito l'ID, quello si collega automaticamente, il software su QRZ si fa il download di tutti quanti gli estremi e mi prepara anche la IQSL e la invia al corrispondente e mi fa il log da solo, mi sistema tutto quanto. Invece in VHF, essendo un'altra radio, non ce l'ho collegata al computer. E infatti voglio chiedere appena ne ho l'occasione a Massimiliano se è possibile comunque fare una gestione dei dati, e ora controllo su coso, sul software l'AM Radio, se per caso viene gestita questa radio, perché non l'ho controllata. E per cui fino a quel momento farò le registrazioni prima su carta, prendo gli appunti e poi li metto nel software, però devo fare due volte il passaggio e questo mi scoccia. Vedremo se riuscirò a sistemare questo, però è utile, va fatto, se non altro hai anche un tuo registro di stazione ordinato, poi servirà per quel che servirà, ma in ogni caso ci vuole, e comunque è utile farlo, ecco. E prendi, vabbè. Sì, no, l'ho detto stamattina, stavo riguardando una cosa, leggendo una cosa. No, vabbè, lo so benissimo, bisogna farlo per forza, per legge, però magari qualcuno anche per mandolonia, magari se ti stai facendo una semplice chiacchierattina con una persona qua vicino, no, per, a scriverlo, magari non è neanche la voglia di farlo. Sì, è vero, certo. Voglio dire, se nel contesto di una serata di radio ti marri qualche registrazione, voglio dire, credo che non muoia nessuno, insomma, Dio mio, non sono cose anche più sicuramente più importanti di cui bisogna tenere conto facendo radio, però insomma è una cosa che bisogna fare. Sì, già lo so, è così purtroppo, dai, diciamo, a parte che secondo me è una cosa incontrollabile, cioè vai, anche se tu non annoti qualcuno, qualcuno riesce a identificare che non hai, a rilevare che non l'hai controllato, cioè non l'hai registrato. Ma infatti è sempre il discorso è che qualora ci fosse qualche corrispondente che dice di aver fatto determinati collegamenti, succede qualche cosa e allora a riprova si può andare dall'altro capo e vedere l'altro registro di stazione, ma voglio dire, non saprei neanche sinceramente, per quanto possa essere la mia immaginazione fervida, non riesco a capire ecco, che cosa potrebbe servire, sinceramente non lo so. Infatti secondo me è una cosa, la fanno troppo complicata questo fatto delle annotazioni, certo se stai facendo delle cose particolari, dei conti, queste cose lì è importante, però se stai facendo una chiacchierata come ce la stanno facendo adesso noi, ma che cavolo, fino a un certo punto, se stiamo parlando di questioni varie di protezione civile, eventi particolari, tutto d'accordo, ma una chiacchieratina sinceramente, sembra che stai manipolando dei fucili d'assalto da guerra, no? Parlando per radio, cioè che male puoi fare, se poi veramente lo vuoi fare il male non ti identifichi neanche. E infatti, perché l'altro presupposto è quello che si ha poi comunque sotto mano un sistema per poter identificare serenamente uno, ma come dici ben tu, chi ha intenzione di fare qualsiasi cosa dannosa per il prossimo tramite una radio, l'ultima cosa penso che faccia è quella di avvisare chi è e chi non è, quindi boh. Comunque tant'è, le cose stanno così, noi ci adeguiamo, siamo sardi, ci adeguiamo sempre. Sì, già lo so, naturalmente se uno deve fare delle operazioni criminali mica si presenta con nome e cognome. Mi domani Claudio, ricordami, ci sei ancora Claudio? Io sono qua, sto ascoltando a voi, non me ne vado mai, io sono saltato. Se passi da me domani ti faccio vedere una fotografia e rimani a bocca aperta, di una situazione particolare. Ma mi vedi sempre in radio? Sì, nel campo della radio stiamo parlando, e poi vedrai questa roba che c'è, non possiamo dire nient'altro comunque qua. Va bene, va bene, ok. Sì, c'è l'attuale il sistema che ha adottato il Ministero, quindi non credo che sia un sistema dove nessuno deve andare in galera. Io, come ha detto Roberto, praticamente non stavo annotando niente, poi me l'hanno detto, quindi anche per fare i questioni locali metto la notazione, insomma, Sassari, nominativo, il corrispondente, eccetera, ma alla fin fine avevo agito. Sembra che però ai fini di controlli da parte delle autorità competenti è una cosa che serve, non so se c'è una multa, se c'è la sospensione della licenza, non lo so. Non ho mai letto niente in merito, sono tutte cose che abbiamo sentito e detto tra di noi, anche tra le varie sezioni, ma non so altro, Salvatore. Sì, ma come immaginavo. Sto cercando una risposta al quesito di prima e non ho ancora trovato niente, non so se esista il modo di poter interrogare la radio per tirare fuori quelli che sono i dati. Penso che sì, perché c'è il connettore. Boh, forse vedo al buon Max, appena si fa vivo glielo chiedo. Riprendi Roberto. Poi a me è una domanda tecnica, questo lo chiedo a voi due. Stavamo parlando ieri con Capri, però li ho visti questo sistema di Rosmet, diciamo, di misuratori di onde stazionarie, con l'antennino. Come funzionano fisicamente? Perché ne ho visto uno, c'ha un'antennina, qualcuno mette, deve mettere vicino all'antenna e è mal importante. Funziona così, mi sembra un po' strana la situazione. Guarda, l'unico che ti può rispondere in materia è quel Salvatore, perché lui mi aveva uno della, mamma mia se riesco a dirlo, Sant'Antonio. Guarda, Salvatore è pratico di questo rosmetro, perché l'ha inventato lui, questo rosmetro con l'antennino corto e il cerchietto per fare le gare a chi metteva meglio la spada. È l'uccello, per meglio dire, Salvatore. Va bene, ti dico, buongiorno. Ehi, la pensi che hanno fatto, hanno riso per un mese. Perché io avevo, ma acquistato veramente tanti, tanti anni fa, un rospetro accordatore come quello che stai dicendo tu, della Falcon, una cosa del genere, e aveva proprio l'antennino laterale da infilare nel suo alloggiamento, alto forse 10 centimetri, e che doveva essere, se non ho capito male, nelle specifiche, un misuratore di campo, una cosa del genere, ma un rosmetro proprio da, sinceramente era evidentemente proprio da 4 soldi, per una prestazione che era, per quello che era, per quello che era il valore del prodotto. E ne avevo comprato, io ne avevo comprato forse 3 o 4 nella mia vita di CB, ma mi hanno fatto a pezzi quando ho raccontato che ce l'avevo e se li potevo ancora usare, perché questa è stata la mia domanda lo scorso anno. Ah, così è il discorso, infatti adesso mi sembrava stata una cosettina del genere, perché se no ti misura l'estrazionale, come fa a misurare l'estrazionale se non c'hai un collegamento con l'antenna? Al limite può essere un misuratore di campo, come hai detto tu, un segnale in microvolto, magari ti tara, te lo metti vicino all'antenna, ma non capisco l'utilità di una cosa del genere. E infatti poi l'accordo in ogni caso lo dovevi fare mettendo quindi il cavo in ingresso e in uscita. Ora non so se quello che hai visto tu è ancora diverso, quelli comunque che avevo io aveva i due connettori laterali a questa scatoletta, un piccolo parallelepipedo per intenderci, con il quale potevi appunto fare l'accordo sino a un massimo di 10 watt, se non ricordo male, poteva reggere come potenza, ma erano dei giocattolini, certo. Ma lo immagino, considerando le dimensioni, cosa ci puoi mettere dentro? Poi l'altro giorno è venuto anche un discorso con Claudio, è venuto l'altro giorno da me, Coccio Marco, e mi stava parlando di questo discorso di commutatore di banda per utilizzare l'accordatore su diverse bande. Ne sai qualcosa tu? Io sinceramente no, sono all'oscuro di tutto. Claudio. Anch'io. Non è stato anch'io. No, io ne ho già parlato. Io se so una cosa la dico volentieri e intervengo su quello che so, ma su quella roba lì conosco perfettamente il prodotto, ma non so né l'uso né come si usa né come, capito? Per quanto riguarda quello che ha detto con Roberto, dei contattori, quelli eccetera, sì. Mentre quella poi da fare invece quello ce l'ho. Quello ce l'ho anch'io, non è un problema. Avanti, chi era l'altro? Domenico, tu sì. Positivo, io, buonasera a tutti, scusa se vi interrompo questi discorsi molto difficili per me, però mi volevo salutare a tutta la comunità. Tu sai che non è niente difficile, a volte è più difficile stare in silenzio. da esprimersi non è mai difficile, anche per il semplice fatto che uno vuol dire che c'è. E quindi già quando si esprime vuol dire che non fa piacere, nel bene o nel male. Ciao Domenico, buonasera, ben sentito. Era una preghiera per il periodo di Natale. Avanti, Salvato. Tu vuoi Falco, Gio Falco, Gesù. Ciao carissimo Domenico, ben sentito dopo un bel po' di tempo, anzi per l'occasione, visto che sicuramente... Ma sei già in movimento? Ehi, Salvatore, sto prendendo quasi le gallerie, infatti non volevo così salutarvi a tutti, mi ha fatto sempre piacere sentirvi a quest'ora, finché vi saluto tutti, scusatemi sempre l'interruzione. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E in ogni caso sappi, Domè, che tra una decina di minuti glielo ricordo io a Claudio che abbiamo parlato con te, perché Claudio sarà oramai già un'oretta che ogni 10 minuti va in tilt e si resetta, capito Domè? L'età è purtroppo maledetta, ma sta avanzando a passi da gigante. È entrato in galleria, non avrei dato tempo manco di rispondere, un piccolo Falco, le lacrime, ma non era esattamente come hai detto tu, Salvatore, mi sto ricordando, praticamente stavamo parlando, tu avevi 4,40 e notavi una differenza dallo strumento esterno allo strumento dell'apparato, e mi immagino, beh, ok, ma tu... Che strumento c'hai per vedere se lo strumento della radio più o meno è così? Guarda, io ho uno strumento dell'MFG, ma niente di particolare, non è che sia da vantare, per carità di Dio, ce ne sono molto molto superiori, tra l'altro quelle anche vecchie. Ma tu cosa stai usando come strumento per vedere questa differenza che no? Ah, io sto usando un rosmetro vattimetro della Falcos, mi ne so fare di lacrime. No, io pensavo a Falcos, mi stavate riferendo a Coso, a Coso, come si chiama Guido? Falcone? No, no, era lo strumento suo, capito? Da lì abbiamo iniziato a ridere, ma tutti, cioè ci abbiamo fatto un crescere di risate. Chiedo la via, questo strumento della Falcos, come lo conosco, l'ho conosciuto per meglio dire, sono anni che non è vero, mi pare me l'abbia fatto vedere uno, Gigi Vulcano da poco, che non so dove cavolo l'aveva trovato, con questo antennino piccolino che si avvita, c'ha il cerchiettino, quindi dura trattenne questo strumento, basta, le lacrime me ne farà mai. No, ma non era così andata, era che con il 4,40 mi segnava un tot di stazionarie che comunque riuscivo ad accordare con l'accordatore interno. Il problema ce l'avevo con il president e quindi utilizzavo per accordare, perché avevo le stazionarie, quella Gegetto. Non ricordavo esattamente il coso giusto, dai, però il prodotto non cambia, sempre quello ci avevi. O che misuravi il watt, o che misuravi le stazionarie, quindi c'era qualche differenza, sempre con Falco eri. E che poi adesso mi hai fatto venire la curiosità, ma mi sembra che nel mio piccolo mobiletto 40x40 dovrei avere ancora forse uno di quelli, forse mi è rimasto, adesso mi ha incuriosito, aspetta che vado a vedere. Mi ha svegliato un articolato. Aspetta che vado a vedere, riprendilo bene. È una cosa particolare, cioè, infatti mi ha incuriosito, ho detto, ma la logica del funzionamento, o come misuratore di campo, ho detto, perché come fa a misurare le stazionarie tu se non l'attacchi all'apparato e l'antenna? È impossibile, è matematicamente impossibile. Ha un significato molto particolare sicuramente, perché fa da misuratore di campo e chi l'ha usato, chi lo usava, sembra che funzionasse, capito? Però non è uno strumento. vedi quello lì con l'antennina sua sopra una radio, già vedi che le lancette si muovono, capito? Perché l'antenna stessa percepisce dietro di RF o qualche perdita di cavo che c'è da qualche parte, tocca non tocca e si muove subito. Quindi io per quello mi sono messo a dire il giorno che lui stava misurando il vatto, le stazionali, adesso mi ricordo, ma c'era un discorso che per carità c'era da morire. Beh, quanti ne hai, Salvatore? Li mettiamo sui bici, li vendiamo, eh? Ebbene, tenetevi forte, ne ho uno tra le mani, è anche bello pulito, devo dirti la verità, che le cose comunque le tengo bene, bellissimo. Made in Taiwan, Republic of China, sto leggendo sul fondo. Cavolo, già prodotto i cinesi, era, ai su Maria. Dunque, Falcos, Communication, Antenna Matcher, Model 3RPM. Adesso guardo su internet se per caso mi è finito su internet. Fatto, mettiamo il quesito su internet. Il più grande misuratore a livello mondiale di stazionarie. Lo mettiamo. E poi ti rispondo io. Taiwan Falcos. Aspetta, Biese, lo sto scrivendo. Aspetta, vediamo un pochettino, ci facciamo una risata. Io ce l'ho, però non è della Falcos, c'era anche, lo faceva anche la Midland, cioè la Alan, uguale a quello della Falcos, preciso, e da qualche parte, in qualche armadietto dovrei averlo, o dove? No, ma noi l'abbiamo presa a ridere, non era per disprezzare ciò che si ha, perché anch'io c'ho tanta di quella mondezza che pian pianino la sto facendo sparire. Però dico, è sempre uno strumento ben valido, eh? Non si riusciva a capire questa antennina che aveva, qual era la sua funzione reale, e poi siamo riusciti a scoprirlo. Avanti, Roberto, prima che perdi a Domenico. Dove c'è sempre da imparare, ricordatemi, ogni volta che ne sento qualcuna nuova io recepisco e scrivo e memorizzo. Mai di imparare, non è. Noi nessuno è nato imparato, abbiamo sempre appreso da quelli che sono entrati prima di noi. A me mi hanno insegnato tante cose i grandi vecchietti della radio, che adesso non ci sono più, e poi l'aggregarsi a persone molto più valide nel discorso radioartistico e nella cultura, soprattutto radioartistica. Come tu ben conosci, Walter, Marco e compagnia cantante, il Vittorio che è entrato da qualche anno, ma che sta dando veramente grande lezione di tantissime cose, molto preparato in materia, quindi poi vabbè, Massimiliano del suo lavoro, eccetera, eccetera. Quindi tutti siamo qua per ascoltare, per imparare e poi per mettere in atto, non è che per carità di Dio, e gli antichi bisogni che non conosciamo ancora, quindi Salvatore, ricapitolando, cosa vuoi fare di questo Falcos? Oh, ho trovato su eBay un certo Domenico che sta vendendo un Falcos, chiedi se è lui, che io non lo sento più. Lui, ma è vero che anche tu stai vendendo Falcos? No, non è Domenico, quello sarà qualche altro Domenico, ma ti faccio ridere anche io quando ho messo inizialmente su subito, vendo baracchini di, perché poi ho messo come fanno le macchine, vendo baracchini plurimarche, basi e non, e qualche HF di vecchia generazione. Tutti mi telefonavano non per dirmi quanto costa, che marca erano questi baracchini, allucinante. Perché non l'ho trovato? Anche tu l'hai trovato? Non è che incognito, mi hai mandato qualche mail anche tu. Scusi, scusi, uno mi ha scritto, scusi se la disturbo, ma vorrei capire che baracchini sono, che marca sono i baracchini. Non è che mi ha detto quanto li sta vendendo qua. Alla fine, al 60° giorno, al 30° giorno, a giubileo ci abbiamo tirato tutto. Mi sono trovato con Gianni, ho detto, ascolta, tu che sei collezionista, ne vuoi baracchini? In attimo, manco lui come viene, io vieni e faccio vedere. Ho aperto il cofano non avevo anche se spaventato. Proprio ti via tutto, vai. Gireti, mi ribeviti, muovi i baracchini. Cazzo, non c'è stato uno che mi ha detto, guardi, le do 10 euro, mi dà quel baracchino. Ma che sta? Nulla. Tutti volevano sapere la marca. Allora signori, io vi saluto perché sono stato richiamato all'ordine qua dal direttore che ha già preparato tutto quanto, quindi ci sta aspettando padre e figlia, e quindi a risentirci dopo, dai, vado a cenare se non è troppo tardi e se ci siete ancora ci facciamo altre due risate volentieri. Ciao carissimo Roberto, ciao Claudio e salutone a tutti quanti gli altri. Casomai fammi da ponte per domenico, un grande abbraccio. Ma lei Roberto che saluto a domenico prima sopra anch'io, cioè, non basta che lui corta, ho messo anche l'antenna corta adesso, capito? Ciao Domenico, un abbraccio grande da Salvatore e da me, capito? Adesso ti passo a Roberto così ti saluta lui, ciao! Ciao Romè, se mi stai ancora ascoltando, io con le tinte ti tiro fuori, tanta, come si chiama, buona giornata, buon proseguo di giornata, la giornata sta finendo, buon proseguo di serata, buon tutto e buon lavoro, ciao ciao. E ci sentiamo anche a te Salvatore, è sempre un piacere ascoltarti, ci abbiamo fatto quattro risate e non fanno mai male, ok, anche io tra poco stacco che devo andare a mettere Maranello a mangiare oggi, che la fame si sente ancora macinando all'interno dello stomaco, vai Claudio. Va bene, adesso andiamo a mangiare tutti. Comunque, quando volete farvi quattro risate, se io non ci sono, fatemi un colpo di telefono, così io accendo sul canale 10 e ce le facciamo quattro risate, capito? La mazza bene varia da vattore. Dove va, troppo ridere. C'è stato un break, però non posso trattenermi oltre, dai, lo fate entrare voi. Salutare a tutti, allora, di nuovo, grazie della chiacchierata, salutare a chi ci ascolta. Allora facciamo entrare il break, sentiamo chi è e poi andiamo a cenare che qua i fornelli sono già accesi. Avanti break, buonasera. Buonasera Claudio, K2 qua che vi saluta tutti quanti, tutti gli amici della ruota. Senti Claudio, vi ascoltavo a 5 minuti, ho visto che c'hai da far vendere, non è che c'hai ricevitori per caso, uno scanner, No, io ho vice trasmettitori amatoriali e basta. E non vendo perché ho già buttato via, se ti facevi sentire prima, magari qualche baracchino ti toccava anche a te, ma ho già dato tutto a Gianni Caprinue e abbiamo fatto dei cambi con delle cose che aveva lui. Volentieri K2, ma non c'ho più niente da dare, veramente. Ho dato tutto quello che avevo. L'ho dato, ok. Ti saluto che è pronta la cena, ti passo Roberto, se poi vuole concludere Salvatore, scanner non ne ho capito, ricevitori niente, solo rice e trasmettitori. Proprio magari qualcuno ti faccia sapere. Ok. Vabbè, a te il microfono e poi io vado a mangiare. Vi saluto tutti, grazie delle due chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime se coincide. Per te Roberto. Ciao Francesco, tanto devo chiudere che mi hanno chiamato, va bene, buona carica, buon tutto, fatti sentire e poi già ci sentiamo di persona. Ok, K2, non so se mi ascolti, proviamo un po' avanti. Ciao positivo, ti ascolto molto bene, la possiamo curare, Sì, Sassari, zona stadio, diciamo, il segnale tuo è quasi 8, la radio avvicinabile, diciamo, dal 4 al 5. Probabilmente qualche riesco può andare con un fischietto, che fosse un propagazione, non so se c'hai problemi, non esistono, fai danno. Non so se mi hai ascoltato. Sì, sei segnale buono, però la radio non mi piace, Gianni. Sembra compresso. Segnale 6920, però adesso non si è uscito quasi niente di radio. Aspetta un pochettino. C'era l'amico 920 più o meno. Forse per cui. Infatti come no, io mi chiamo, come la roba vecchia, e quindi ho questo un vecchio cemento dentro, un vecchio. Era la mia vecchia, ma è sempre un distaccarmi, cioè stavo, avevo dato il cuore il titolo, ho aperto un attimino il mic per salutarti, io devo abbandonare qua la frequenza, ne avrò modo di sentirci, dai, che mi hanno chiamato già da un po' a mangiare e non sono andato. Ciao, cuore il titolo da parte mia.